detto che io non servo, mi hanno detto che sono un falso, ma io per te nemmeno esisto. Mi hanno detto che sono niente, mi hanno detto sei un perdente, ma tu non hai ancora visto. Hanno detto tienici vicino gli amici, e più vicino ancora tieni stretti i nemici. Hanno detto i soldi fanno male, non ti danno la gioia, ma in fondo dipende un po' da quanto fai la troia. Sto lontano da chi quando parla mi annoia, da chi per arrivare succhia tutto ed ingoia. Hanno detto vi prometto voi farete, alle promesse non crediamo più, non serve che fingete. Hanno detto Jolly non si vede da un po', è fuori dal giro se la mena da un po'. Mi hanno detto non sei più lo stesso, e io ho risposto lavoro per il mio successo. Mi hanno detto resta come sei, non cambiare mai. Mi hanno detto occhio a dove vai, occhio a ciò che fai. Mi hanno minacciato, isolato, reso ridicolo. Mi hanno detto che i più forti sopravvivono. Ti hanno detto un sacco di stronzate, fiumi di parole che vanno buttate. Dicono che possono dare consigli, vogliono rubare solamente i tuoi sogni. Troppi che adesso falliscono, tutti parlano e pochi che agiscono. Non ti servono approvazioni, tieni sempre vive le tue ambizioni. Parlano senza cazzare ad oltranza, falsi qualunquisti laureati d'ignoranza. Mi critica uno stemma, viene giù nel dilemma. Ascoltare queste voci, abbandonare la tua flemma. La mia fiamma dentro arde per pura passione. Ho il mio terzo dito per ogni povero coglione. Cerco serietà come acqua nel deserto. Combatto visto che la vita sbaglia verso. Sento i corvi in aria, sono pronti a banchettare. Per avere la mia pelle dovete ancora aspettare. Non puoi cedere e cadere qua, nemmeno rallentare. Mi ripeto ogni giorno, non farti fermare. Se avessi avuto un euro per ogni persona che qua parla, oggi mi interesserebbe ancora ad ascoltarla. Invece vado dritto per il mio percorso. Cosa mi hanno detto? Io vado nel lato opposto. Mi hanno detto che io non servo, mi hanno detto che sono un falso, ma io per te nemmeno esisto. Mi hanno detto che sono niente, mi hanno detto sei un perdente, ma tu non hai ancora visto. Per te nemmeno esisto. Mi hanno detto che sono.